Investire informati. Allora, quest'anno nel mondo del risparmio c'è una novità, sono sulla rampa di lancio, in realtà per qualcuno siamo anche oltre, i piani individuali di risparmio, i PIR, un'alternativa creata nel mondo del risparmio gestito con diversi obiettivi. Da un lato incoraggiare il risparmio a medio e lungo termine, dall'altro far confluire capitali freschi verso l'economia reale. Come? Lo spiegheremo questa mattina. È vero che le strutture di costo però di questi nuovi prodotti di investimento rischiano, come già qualcuno ha contestato, di vanificare tutto il vantaggio fiscale identificato molto chiaramente dalla legge. Quindi insomma ci sono tanti obiettivi importanti di questi nuovi strumenti di investimento, ma anche qualche criticità che è stata sollevata. Allora noi stamattina proveremo a chiarire ogni dubbio con Claudio Tosato, direttore prodotti di Anima SGR. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno. E Simone Binismaghi, vice direttore generale responsabile direzione sviluppo e marketing di Arca Fondi SGR, che prima diceva la sua sul sapone in bagno nella propria abitazione. Ha ragione, certo. Infatti io vedevo lo stesso problema. Adesso un problema di praticità, perché ha famiglie numerose, io ho 5 figli, quindi si immagina quante saponette. Andiamo a sapone liquido. Quindi volete dire che io che sono da sola posso utilizzare ancora il sapone con tutta l'acquetta dentro? Sì, ci sono dei vantaggi. Tosato non si pronuncia, sull'argomento. Sapone liquido. Liquido, sapone liquido forever. Allora Tosato, inizio con lei, perché voi il vostro primo PIR lo avete già fatto partire, registrazione, partenza, sottoscrizione dal 9 gennaio. Adesso spiegheremo ai nostri ascoltatori come investite, su che aziende state già facendo confluire l'investimento raccolto tra la platea appunto degli investitori e dei risparmiatori, ma le chiedo intanto se dovessimo spiegare subito ai nostri ascoltatori la differenza tra un PIR è un fondo comune di investimento, perché poi in realtà nelle caratteristiche sono molto simili, ma le due differenze fondamentali fra queste due soluzioni di investimento quali sono? Differenza numero uno è che il PIR è focalizzato sul, almeno per il 70%, sul mercato degli emittenti italiani, mentre un fondo comune di investimento può essere diversificato su qualsiasi tipo di mercato. Seconda differenza, l'acquisto del PIR è limitato come somme massime investibili, i famosi 30.000 euro all'anno, per un totale di 150.000 euro complessivi, mentre gli altri fondi non hanno questo tipo di limitazione. E poi c'è tutto il tema fiscale fondamentale. E questa che è la grande novità. Spieghiamolo allora, ecco, quanto si può risparmiare dal punto di vista fiscale investendo in un PIR? Sostanzialmente se il PIR viene detenuto, secondo i termini di legge, ogni somma deve essere mantenuta almeno 5 anni, trascorsi 5 anni il risparmio fiscale è totale, cioè non c'è nessuna applicazione di alcuna aliquota sul capital gain maturato, mentre gli altri fondi hanno un'applicazione di un'aliquota che può variare dal 12,50% per i titoli di Stato oppure al 26%. Quindi per questo tipo di investimento tecnicamente il risparmio è del 26%. Certo. Come si chiama il vostro fondo? Si chiama Anima Crescita Italia. Uh-huh. Binismaghi invece, il fondo di Arca SGR come si chiama? Arca Economia Reale Bilanciato Italia. Allora vi ho fatto dire i nomi per far indispettire quei detrattori di Investire Informati che dicono sempre che io faccio la venditrice di polizze e fondi. Potevo togliermi questo sassolino, Nicoletta, me lo consente stamattina? Infatti siccome io il pomeriggio mi metto a fare appunto la venditrice e la consulente finanziaria, volevo dirlo. No, siccome sono le due grandi novità appunto di questo mercato, ci piacerebbe quantomeno se le persone lo vedessero in pubblicità da qualche parte, identificano subito il tema di cui abbiamo parlato questa mattina. Binismaghi, voi peraltro, ma in realtà lo aveva fatto anche Anima, eravate già partiti un paio di anni fa con un fondo di investimento appositamente dedicato all'investimento nell'economia reale italiana, nelle piccole e medie imprese italiane, nelle small cap. Questo significa che la nuova avventura con i PIR vi ha fatto trovare in qualche modo pronti, o comunque c'è dovuto stare in mezzo anche un adattamento normativo? Non è stato il vecchio fondo che si è trasformato nel nuovo? Quello nuovo è qualcosa di completamente nuovo, comunque c'era esperienza. Sì. Allora, giustamente noi eravamo partiti circa 2 anni fa con un fondo azionario che si chiama Arca Economia Reale Equity Italia. È un fondo azionario che investe esattamente sulle PMI italiane, che fra l'altro è andato molto bene, perché quel segmento lì anche è andato molto bene. Ci sono aziende veramente molto interessanti. Quando parliamo di economia reale e quando parliamo di mercati finanziari spesso si fa confusione, perché sui grandi listini ci sono aziende quotate che sono aziende finanziarie che hanno un sacco di problemi, mentre sappiamo benissimo che ci sono aziende molto interessanti dove investire, che crescano, che esportano, e quindi è sicuramente qualcosa di interessante. Tra l'altro non si quotano in borsa e spesso non ne consentono appunto effettivamente magari ad un gestore, ad un investitore di puntare su di loro. La novità del PIR è che si può andare anche a pescare fra società non quotate, questo è un tema importante, poi ci arriviamo. Sì, ci arriviamo perché è un punto un po' delicato, direi. Quindi la parte azionaria, noi eravamo già da 2 anni attivi e quindi la nuova proposta tiene conto anche dell'esperienza sulla parte azionaria. La novità è che in questa proposta, come il collega, c'è una componente obbligazionaria che anch'essa è molto importante. Il tema che ha accennato, quotato o non quotato, è un tema molto delicato. Quello, certo, vale perché la pena, non potete fare quello che volete. In realtà ci sono dei limiti di legge, delle percentuali. Bravissima. No, esatto. Poi se offriamo dei fondi aperti, la gente può sottoscrivere. Come ha detto il collega, la legge dice che per avere l'agevolazione fiscale bisogna starci 5 anni almeno, però nulla vieta che se qualcuno vuole uscire prima deve uscire. I nostri sono dei fondi aperti, sono dei fondi liquidi, dobbiamo rispettare questa cosa. Ricordiamoci che i fondi comuni italiani esistono nel nostro paese da 34 anni, 33 anni e non è mai successo che un fondo non abbia ripagato dei suoi riscatti. Questo per dire l'attenzione che c'è e deve continuare questa attenzione di rispettare il risparmiatore in tutto e per tutto. Questa è la cosa prioritaria. Cuore e denari. Allora, Investire Informati di questa mattina stiamo parlando di una novità recentissima del mondo del risparmio in Italia. Nell'industria del risparmio gestito stanno facendo il loro debutto i PIR, i piani individuali di risparmio. Quasi tutte le SGR in Italia si stanno attrezzando, alcuni sono già partiti, come nel caso di Anima SGR, partito con le sottoscrizioni già il 9 gennaio, e altri appunto sulla rampa di lancio. Il caso di Arca Fondi SGR, questa mattina sono venuti a trovarci Claudio Tosato e Simone Binismaghi. Stiamo provando a capire come funzionano questi piani appunto di risparmio, le differenze fondamentali dai fondi di investimento, perché per molte caratteristiche sono simili. La differenza fondamentale è la fiscalità molto vantaggiosa e naturalmente una caratteristica che la legge ha riconosciuto per fare in modo che chi investe in questi prodotti rimanga investito per almeno 5 anni. Perché? Perché le risorse raccolte da questi fondi vanno all'economia reale. Tosato, ho fatto proprio una sintesi estrema, ma il tema è: voi che siete già partiti con le sottoscrizioni, a che aziende avete guardato? Che tipo di opportunità di investimento avete voluto ricercare? Insomma, quali sono le aziende che vi piacciono da far crescere? Poi dovremo anche ricordare l'aspetto del quotato e non quotato, perché una piccola parte dei fondi vanno anche nel mondo non quotato. Beh, per partire dobbiamo rispettare quello che prevede la normativa, quindi almeno il 70% del portafoglio è investito in titoli italiani o in titoli europei che hanno una stabile organizzazione in Italia. E di questo 70%, almeno il 30%, quindi il 21% del portafoglio complessivo, deve essere investito in titoli di piccola e media capitalizzazione, non compresi quindi nei 40 titoli del FTSE MIB. Ecco, questo è il punto di partenza per essere sicuri che i soldi arrivino sostanzialmente alle aziende italiane o che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Detto questo, la selezione è molto importante, perché la selezione deve in qualche modo rispettare un criterio di diversificazione e anche di redditività di medio e lungo periodo. Quindi si cercano le aziende che hanno il maggiore potenziale di sviluppo per un orizzonte, per esempio 3, 5, 10 anni, visto che l'orizzonte temporale è piuttosto lungo. Ce ne sono a Piazza Affari? Ce ne sono diverse, ci sono moltissime opportunità. Perché ci si lamenta sempre che la borsa italiana è piccolina, che in realtà non rappresenta adeguatamente il tessuto imprenditoriale ed industriale italiano, per cui effettivamente cercare delle occasioni anche nella nostra piazza per voi è una bella sfida. Sì, guardi, è un processo virtuoso, perché la borsa rimane piccola, fra virgolette, perché non ci sono abbastanza risorse. Perché non arrivano abbastanza risorse alle imprese italiane e quindi si tratta di trovare un meccanismo per cui queste risorse arrivino. Questo può essere un meccanismo molto importante, perché con questo afflusso di denaro che è previsto concentrato sulle aziende italiane, i rendimenti per finanziarsi diminuiscono per le aziende, e quindi molte aziende che fino a ieri non hanno affrontato il passo di quotarsi, di portarsi alla borsa oppure di emettere obbligazioni per finanziare i propri investimenti, supereranno questo passo, certo, e cominceranno a farlo. No, infatti questo è un tema importante. Dottor Binismaghi, volevo coinvolgere lei proprio per il fatto che spesso ci si è lamentati che gli imprenditori italiani non amano quotarsi, un po' perché naturalmente preferiscono ricercare capitale, mettere i loro soldi nell'azienda o cercare appunto altre alternative. Adesso neanche la banca ovviamente garantisce più grande sostegno finanziario all'industria, ma un po' l'imprenditore italiano faceva fatica a quotarsi, lo ha fatto fino a questo momento perché non gli piace tanto comunicare con la comunità finanziaria, ottemperare gli obblighi della trimestrale, della semestrale, i costi, eccetera. Tanto che c'è stato un periodo che andavano a quotarsi tutti a Londra, no? Il segmento delle piccole e medie imprese. Dottor Binismaghi, certo, probabilmente lei se lo ricorderà. Secondo lei questa ventata d'aria fresca portata dai peer porterà l'impresa italiana a ripensare alla borsa con un'idea diversa, un'ottica diversa? Deve. Deve assolutamente, se no rimaniamo solo con un lato che si sviluppa, perché come si sta vedendo nell'offerta dei prodotti c'è già molto fermento, no? Siamo già direi ben avviati, dall'altro bisogna assolutamente che ci sia un movimento, e questo è il lato più importante. Dobbiamo molto sensibilizzare, no? Le associazioni di categoria, è un'occasione questa, come ha detto il collega, è una grande occasione, quindi le imprese che non sono quotate, che hanno dei bei progetti, devono venire sul mercato. Lei ha accennato al discorso, no? Londra e Milano. Milano c'è un mercato, AIM, che c'è anche a Londra, ne abbiamo noi 77 di aziende, a Londra ce n'è 3500. Ma perché questa differenza? Qual è il motivo? I capitali ci sono e arriveranno, perché sicuramente le previsioni sono molto interessanti, però devono esserci anche le imprese devono venire, deve cambiare la cultura, parlavamo di cultura prima, la cultura finanziaria in questo paese deve evolvere a 360 gradi, è cambiato il mondo. Siamo in un mondo diverso, il ruolo delle banche è diverso, sosterranno sicuramente l'economia, è imprescindibile, ma le aziende devono andare sul mercato dei capitali, anche i passaggi generazionali avvengano più facilmente. Beh, molto spesso c'è anche grande scontro fra vecchie e nuove generazioni all'interno di un'azienda, perché magari i giovani vorrebbero fare questa evoluzione e rivoluzione all'interno dell'azienda, sono le vecchie generazioni che trattengono un po', certo, di più e mantengono, conservano ancora siamo, un po'. Siamo in una fase di passaggio oramai, tutte, certo, le imprese nate nel dopoguerra, no, gli imprenditori stanno un po' arrivando alla fine del loro percorso, quindi anche il passaggio generazionale generalmente quando si è quotati avviene molto meglio. Anche per il management essere quotati vuol dire tutto un altro meccanismo, certo, di dinamica anche all'interno dell'azienda, fra il capitale, il management, la responsabilità proprio sociale dell'azienda. Certo. Insomma, vista da questi punti di vista è tutto molto interessante, tutto molto bello, però adesso le criticità ve le devo tirar fuori, perché sennò ritorno a fare la venditrice di fondi e qua ritorniamo al mio vecchio vizio, che è quello ovviamente di fare come secondo mestiere la vendita dei fondi delle società che vengono a trovarci. 800240024, ci sono già delle curiosità da parte degli ascoltatori, raccolgo subito quella di Roberta da Firenze, che salutiamo con piacere. Roberta, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Io volevo sottoporre questa domanda. Adesso ho un piano di accumulo, quindi posso pensare di fare la sostituzione con un peer? Allora Roberta, intanto è consentito, Claudio Tosato, ad un peer fare l'investimento appunto a rate, come avviene per molti fondi di investimento, quindi farlo con, assolutamente sì, con il piano di accumulo. Assolutamente sì, ed è anzi consigliato, ma anche perché la stessa normativa prevede un limite di 30.000 euro all'anno. Quindi di fatto la stessa normativa dice devi arrivare al tuo massimo un poco alla volta, che è 150.000 euro. Poi a seconda di quanto uno può contribuire, certo, con 1.000 euro, 2.000 euro all'anno, eccetera, ha molto spazio per arrivare a 150.000 euro. Quindi il piano di accumulo è perfetto, certo, da questo punto di vista. A maggior ragione tenendo conto del fatto che l'investimento è sul sistema Italia, quindi sostanzialmente diversificare anche il momento d'entrata è un buon modo per diversificare questo tipo di rischio. Dottor Binismaghi, che grado di interesse avete trovato tra la vostra clientela rispetto a questa novità? Voi ci siete perché l'industria deve esserci, perché la legge dà questa enorme opportunità di carattere fiscale, o tutto sommato c'era anche un po' curiosità verso un approccio nuovo all'investimento che guardasse alla nostra impresa, che comunque un po' soffre per tutta una serie di problemi, non ultimo tra l'altro quello politico anche, no? Ma guardi, noi ci siamo perché investire sul mercato finanziario italiano è per un'azienda italiana come la nostra, che gestisce risorse di 1 milione di risparmiatori italiani è primordiale, è il nostro business. Noi selezioniamo da anni aziende italiane e qui c'è l'occasione per offrire, no, portafogli selezionati ai clienti italiani. C'è grande interesse, è una grande novità, ma è una novità, come si può vedere anche dalla domanda che è stata fatta, è una novità di cultura. Piani di accumulo, giustamente, è la maniera per fare. Il legislatore ha detto c'è un'agevolazione 30.000 euro l'anno cumulabile a 150.000 euro, quindi minimo 5 anni, ma uno può anche versare 10.000 euro per N anni. Quindi torniamo a parlare di investimenti di lungo periodo, che è l'ABC del risparmiare, è l'ABC, investire nel lungo periodo. Il vantaggio fiscale rimane anche per il periodo oltre il quinto anno. Assolutamente, diciamo, lei tiene il vantaggio fiscale fino a quando non ha raggiunto i 150.000 euro. Certo, se invece una persona si stanca o ha bisogno di liquidità, non ha ben capito la filosofia, lo spirito di un investimento di questo tipo, che è quello di mantenere il proprio denaro in un'ottica di medio-lungo termine, come in realtà dovrebbe essere sempre con i fondi di investimento, perché se tu vuoi qualcosa da smontare, liquidare immediatamente, deve dirottarti su non compri una casa oggi perché ti serve quel denaro fra 6 mesi, no? Perché sennò l'investimento del mattone lo sappiamo che è poco liquido. Se qualcuno però ha bisogno per un'emergenza, Tosato, e l'investimento nel fondo ha intenzione di smontarlo prima, il vantaggio fiscale dove finisce? Si interrompe e basta? Se smonta prima dei 5 anni, sì, il fondo comune investimento, il PIR, praticamente si comporta come un normale fondo comune investimento e viene applicata senza penalità la normale tassazione. Uh-huh. Ecco, da questo punto di vista c'è un fortissimo vantaggio per come è costruito, perché anche se, siccome è un accumulo di diverse somme negli anni, già anche la normativa prevede che in caso di smontamento si va a smontare la somma più vecchia, che si spera che nel frattempo abbia visto, diciamo, trascorrere almeno 5 anni. È chiaro che da quel momento in poi, se il risparmiatore riesce a non uscire, può sostanzialmente tenersi questo vantaggio a tempo indeterminato e poi, trascorsi questi famosi 5 anni, può disinvestire senza nessun tipo di fiscalità. Di penalizzazione. Allora, c'è un ascoltatore che ci dice, Paolo da Belluno, che non siamo stati chiarissimi sulla questione della spiegazione del vantaggio fiscale. Binismaghi, faccio fare adesso il fiscalista al commercialista. Il vantaggio fiscale del 26%, non è stato precisato che il calcolo va fatto sull'incremento, quindi sul capitale che naturalmente il fondo teoricamente dovrebbe maturare, ma è ovvio che voi mettete a fare questo lavoro provando a fare una gestione attiva, intensa e a creare redditività. Se il capitale, se il fondo non rende, Binismaghi, che succede? Se non rende, non rende e non c'è tassazione. La tassazione che oggi è in vigore in Italia, che è del 26% su quasi tutti gli strumenti, al di fuori naturalmente del 12,5% che hanno i titoli dello Stato. Quindi sulla rivalutazione oggi qualsiasi strumento finanziario viene applicata la ritenuta fiscale del 26%. Nel piano individuale di risparmio non viene applicata il 26% sulla rivalutazione. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di investire in aziende, come è stato detto, che crescano e si sviluppano. Generalmente nel medio periodo, ecco perché è importante anche il concetto dell'orizzonte temporale, un'azienda che cresce, cresce gli utili e quindi il valore va a esprimere questa crescita degli utili e quindi il titolo sale e quindi c'è una rivalutazione. Ecco, se noi investiamo in queste aziende come l'abbiamo fatto nel passato, sicuramente ci sarà una rivalutazione, ecco, e sicuramente se il risparmiatore rimane dentro almeno 5 anni, quando andrà a disinvestire oltre i 5 anni, non ci sarà fiscalità applicata su tutto il suo investimento, quello che sia un vantaggio non banale. Diciamo che quello che vediamo oggi qui in Italia, in alcuni paesi, tipo la Francia, anche l'Inghilterra, esiste già da diverso tempo. Certo. Cuore e denari. Allora, naturalmente noi volevamo già farlo, ma chiaramente anche gli ascoltatori ci chiedono, vabbè, spiegateci un po' quanto costano. Allora, le politiche di commissione applicate appunto a questi fondi sono le stesse dei fondi di investimento, dottor Tosato, Anima SGR. Allora, mediamente noi conosciamo delle commissioni di sottoscrizione di un fondo di investimento, delle commissioni di gestione, di uscita, di switch se si cambia da un fondo all'altro, insomma i costi, gli oneri ci sono, e questo qualche volta è stato anche un po' tutto quell'aspetto che ha messo sotto accusa l'industria di fondi, accusata di essere molto onerosa, ma in realtà di non fare magari grandi risultati capaci di ripagare questi costi. Detto ciò, il PIR come funzionerà? Il PIR, per esempio quello che abbiamo fatto noi, ha un costo esattamente identico a fondi analoghi che hanno lo stesso profilo di rischio. I costi vanno a remunerare praticamente la qualità della gestione. A maggior ragione questo tipo di mercato, che è molto più selettivo, molto più difficile, perché in ogni caso si tratta di selezionare le migliori imprese italiane, dargli i soldi ai nostri investitori per un prestito obbligazionario piuttosto che metterli all'interno del capitale di rischio, quindi all'interno delle partecipazioni azionarie, è molto importante selezionare le aziende giuste che abbiano le maggiori prospettive di crescita. È molto importante diversificare bene il portafoglio. Questo ovviamente ha un costo, e il costo di fatto che viene applicato per esempio al prodotto che abbiamo lanciato noi, al PIR che abbiamo lanciato noi, è esattamente uguale a un altro fondo bilanciato, ma proprio identico, certo. Non c'è un costo in più. In più c'è il vantaggio per il cliente invece, che con questo tipo di strumento non paga le tasse. E infatti, dottor Binismaghi, voi invece che tipo di struttura dal punto di vista delle commissioni anche avete deciso di darvi? Anche noi abbiamo un costo che addirittura direi che, confrontati con i prodotti più vecchi che ci sono sul mercato in generale, è sicuramente sotto la media del mercato. E non credo che sia intenzione di nessuno di andare a applicare costi nei fondi comuni superiori a quello che è la situazione attuale. Se le chiedo un brutale esempio, per esempio lei, io decido di consegnarle quando partirete col vostro fondo 10.000 euro per partire subito, la prima commissione che devo versare qual è? Quella di sottoscrizione, che misura è? Può anche avere l'esenzione totale della commissione di sottoscrizione. Il costo della commissione di gestione è in linea con quello del fondo del collega, 1,35% l'anno. Tenuto conto che questa commissione paga l'attività di gestione e di selezione, che qui, come potete immaginare, non è per niente banale. No, certo. Perché chiaramente vedremo anche le aziende che verranno sul mercato, bisogna selezionare le aziende che vale la pena di investire con le aziende che non vale la pena. Noi abbiamo accennato al nostro prodotto, in quel prodotto abbiamo 50 aziende, punto. Dove abbiamo messo i risparmiatori, e il fondo è andato molto bene in 2 anni, perché abbiamo investito e selezionato e escluso certe aziende. E nel corso della gestione si inseriscano aziende nuove e si eliminano aziende che non sono più interessanti. Secondo, la commissione, questo costo, paga anche il lavoro di consulenza che viene remunerato da parte di chi spiega al risparmiatore il prodotto. Avete visto le domande che stanno arrivando? Ma non ho capito. Quindi anche la spiegazione del prodotto ha un suo valore che è enorme. Questo prodotto va spiegato con grande attenzione, bisogna stare attenti perché ci sono anche dei rischi, no? C'è entusiasmo perché c'è l'agevolazione fiscale, come sì, gli spiegate però i non rischi è che deve, di PIR? Voi quali vedete? Rischio. Dobbiamo comunque far sì che il cliente abbia sempre un portafoglio ben diversificato nei suoi prodotti. Anche se in realtà un'accusa che viene mossa ai PIR di essere evidentemente domestico-centrici, no? E tosato per loro natura, naturalmente sono soluzioni di investimento create dalla legge italiana per puntare sull'economia italiana. Uno che vuole diversificare, il PIR se ne prende uno, per il resto diversifica il suo portafoglio con altro. Mi sembra la banalità più totale, però... A nostro avviso è addirittura uno strumento per ridurre il rischio. Mi spiego meglio. Le famiglie italiane sono molto concentrate sul rischio Italia. Ho dato un'occhiata ad alcuni dati. Circa 4.000 miliardi è la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Di questi 4.000 miliardi... un quarto, cioè 1.000 miliardi, sono investiti in depositi e titoli di Stato e titoli obbligazionari italiani. Che sappiamo bene quanto rendono in questo momento, quindi attenzione anche a quell'ambito là. Esattamente. Non è necessario quindi mettere dell'altro rischio sull'Italia, è sufficiente spostare parte di questi soldi su questo fondo o su questi fondi PIR, che sono molto più diversificati, sono sempre legati all'Italia, ma sono molto più diversificati rispetto all'acquisto di una singola obbligazione o due obbligazioni o 3 titoli di Stato italiani. Certo. Quindi... tra l'altro, tra le caratteristiche di questi prodotti, leggevo che ancora l'aspetto non è totalmente chiaro, non so se l'avete chiarito voi, era quello che lei ci diceva prima: tra le varie caratteristiche, il fondo deve investire investire in società che possono essere anche europee, comunque straniere, ma che abbiano una presenza italiana. Una presenza di che tipo? Fisica, legale, giuridica? È stato chiarito questo aspetto? È stato chiarito a livello molto macro. La presenza deve essere una presenza di tipo stabile organizzazione, quindi, come dire, delle filiali. Non è sufficiente, per esempio, che una società europea abbia una sua azienda, una sua SPA in Italia, mm-hmm. perché allora a questo punto tanto vale che emetta con quella SPA. No, quello che si è detto è stabile organizzazione significa proprio risorse, fabbriche, dipendenti, filiali. Che investa nell'economia reale che italiana, investa nell'economia esatto. italiana e paghi che le tasse crei occupazione possibilmente, beh, certo. E paghi le tasse in Italia. Ecco, bravo, esatto. Allora, Sergio da Sassari, qua è il fisco, la grande incognita sempre del risparmio in termini generali. Sergio, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'opportunità che mi ha offerto di intervenire e complimenti perché vi seguo sempre. Ottimo. La domanda non è specifica per il PIR ma per il mondo dei fondi in generale, e cioè plusvalenze e minusvalenze come vengono trattate fiscalmente? Sono compensabili fra di loro e se sì in che modo? Allora, qua nessuno dei due vuole rispondere? No. Per quale motivo? Fate rispondere a me, la domanda è giusta perché chiaramente passando da delle logiche dell'amministrato dove la risposta sarebbe sì, ci può essere compensazione, la compensazione è all'interno del fondo, certo. che viene fatto, quindi non si fa compensazione fra fondi. È il fondo stesso che ha plus e minus e fa quindi una questa compensazione. Attività. Si comporta da sostituto d'imposta. Può fare compensazione certo. tra un fondo e l'altro. Allora, vedo anche già Teresa che si è messa in fila per intervenire. Vedo molte donne interessate ai PIR, molta concretezza da parte delle investitrici. Le donne sono molto interessate agli investimenti. Io partecipo a tantissimi incontri con clienti insieme a tanti istituti e devo dire che le donne sono le più attente, prendono nota e fanno le domande. E fanno un sacco non di so, domande. Non so se un motivo è che l'uomo negli ultimi anni, il fidanzato, il marito, ha investito male e quindi è arrivata la donna, ha detto adesso te basta. No, diciamo che forse la donna... Devo dire che sono molto, molto sorprese anche dalle domande, molto interessate. È che la donna sta acquisendo sempre di più, come dire, consapevolezza di questi argomenti perché magari le capita di rimanere single, monoreddito, deve occuparsi, responsabilizzarsi dal punto di vista della gestione della finanza familiare, mentre in passato eravamo abituate a far sì che papà e marito si occupava di tutto, adesso non ce lo possiamo più permettere. Un'età che è cresciuta. C'è un punto molto importante. Un punto molto importante. Quando si parla di denaro c'è sempre molta emotività. Paradossalmente la donna riesce a essere più razionale. Sì, più prudente, magari prova naturalmente a non avventurarsi nel mondo dei mercati finanziari con spirito aggressivo e speculativo, però se si interessa, se si appassiona, povero consulente perché lo vernicia di domande. Teresa, fa anche lei così, buongiorno velocissima perché stiamo già chiudendo purtroppo. Buongiorno signora Deborah, grazie della risposta che mi darà. Voleva avere in realtà un esempio concreto ma non ce la facciamo. Teresa, ci scriva cuoredenari@radio24.it, le faccio fare due simulazioni da Claudio Tosato e Simone Binismaghi con i loro fondi, chiedeva un esempio concreto di investimento con ipotesi di rendimento e commissioni, quindi come potrebbe teoricamente funzionare, ma qua chi le vuole far più le previsioni di come va il mondo finanziario, che le canniamo tutte da qualche tempo a questa parte. Abbiamo terminato, in bocca al lupo per la vostra avventura, adesso vado a vendere i vostri fondi, sì, più tardi con Nicoletta che naturalmente riceve la commissione. Grazie a tutti, Investire in Formati termina qua. Ricordatevi le ragnatele anche. Esatto, ci troviamo domani? Certo. Buona giornata a tutti. Ragnatelizzatevi.